ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. E più ci inoltriamo in questo inverno così vero con tutti i crismi, più mi vengono i dubbi sul titolo che ho scelto per questa trasmissione, no? Perché non ci sono più le mezze stagioni corrisponde un po' anche sovrapponibile anche alla frase non ci sono più le stagioni di una volta. Invece questo inverno perdura nel suo essere piuttosto molesto, diciamo, anche se la scorsa puntata, la prima puntata, dicevamo col colonnello Giuliacci che insomma ci voleva un inverno vero, no? Ci sono cicli e ricicli che non bisogna lamentarsi perché l'inverno è previsto che faccia freddo, che nevichi, che piova, e la primavera in un certo modo, l'estate in un'altra, d'estate fa caldo, l'inverno fa freddo, e quindi insomma non continuiamo a lamentarci, però poi ci inoltreremo magari ancora in questi argomenti. Ma sapete che come sempre qui a Non ci sono più le mezze stagioni il titolo è sempre valido in realtà, perché le cose continuano a cambiare, basta anche soltanto guardare in una settimana che cosa succede, no? Quante cose si evolvono o si involvono a seconda dei punti di vista, quante cose si trasformano, e quindi sono sempre molto attenta alle vostre antenne, anzi molto curiosa di sapere che cosa le vostre antenne registrano di quello che succede durante la settimana. Quindi ci ritroviamo poi qui il sabato per discutere, per riflettere insieme delle tante notizie, delle tante cose che succedono a livello locale, a livello italiano e nazionale. Vi proporrò e proporrò poi all'ospite tra pochissimo alcune delle tante notizie, ma chiedo anche a voi ascoltatrici e ascoltatori di raccontarmi che cosa vi ha colpito di più in questa settimana, e anche se avete in mente una buona notizia oppure tra le tante che cercherò di sfoderare una dopo l'altra, quali sono le vostre riflessioni? Insomma, ci sono sempre tante cose da dire, è bene avere un punto di vista sulle cose, poi giusto o sbagliato lo giudica ognuno. Il numero verde per i vostri interventi è 800 24 00 24, numero verde, lo ripeto, 800 24 00 24. Intanto naturalmente saluto il mio ospite che è romano, oggi sta a Roma, insomma, Fausto Brizzi. Ciao Fausto. Ciao, ciao. E avrà la pazienza di stare con noi tutta l'ora, Fausto, anche perché insomma sei già molto, molto pago di grandi soddisfazioni in questi giorni, quindi immagino sei rilassato in questo momento? Ma oggi sì, insomma, ieri è uscito il mio film nuovo Ex, e quindi oggi è giornata di riposo. Ecco, di raccolta di frutti, poi vedremo insomma quali sono, ma si preannuncia con un altro grande successo al botteghino, no? Ex. Ieri è andato molto bene, insomma, il primo giorno, adesso quindi, come se continua giorno? Così... L'accoglienza è stata ottima e ti auguriamo che naturalmente ci sia un ottimo proseguo. Fausto Brizzi, per chi non lo sapesse, insomma, ma credo la gran parte lo sappiano, il Golden Boy del cinema italiano, ha scritto molte fiction per la TV, tante commedie di grande successo, una dozzina di film, tutti con la regia di Neri Parenti. Poi la sua prima opera, quella veramente che ha sbancato il botteghino, è stato Notte prima degli esami nel 2006. Tanto ha avuto successo, tanto riscontro, che poi hai fatto anche il numero due, diciamo, no? Notte degli esami oggi, Fausto. E ieri è uscito. È fantastico, adoro Golden Boy, visto che ho appena compiuto 40 anni, ed è un sintomo proprio che in Italia non... Vedi, non si riesce a esordire prematuramente. A parte che non ci sono più le mezze stagioni, perché una volta a 40 anni si era vecchi, adesso sei un Golden Boy, un ragazzo d'oro a 40 anni, chissà 50 che cosa diventa Fausto Brizzi. E in più però non si è accontentato di fare questo film, Fausto, perché è uscito anche per Mondadori Manuale degli Ex. Quindi sei molto incentrato su questo argomento, Fausto, e vorrei che fosse anche uno dei temi di oggi con gli ascoltatori. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, anche se volete intervenire su questo tema cruciale, purtroppo, diciamo, un po' per tutti. Fausto, tu l'hai girato in commedia, ma anche con delle venature amare, no? Sì, con un po' di malinconia, perché è un tema che non si può trattare soltanto ridendoci sopra, perché un po' di rimpianto c'è quando si parla di ex, sempre. Nel tuo caso, posso scavare un po' nel... Nel mio caso, sì, sicuramente, ho delle ex che mi sono rimaste nel cuore, ed è normale che sia così, insomma, ho anche dedicato il film a loro in qualche modo, perché quando veniamo mollati da dentro ci sembra tristissima la situazione, da fuori è un po' buffo, visti da fuori, e nel film ho cercato di mettere queste due anime. Però ti ha portato bene questo film, non è soltanto gossip, è vita vera, vissuta questa, perché tu hai conosciuto, girando il tuo film, cioè già la conoscevi, ma insomma lì è scoppiato l'amore, con Giorgia Wirth, quindi tu l'hai fatto sull'ex, l'hai dedicato alle tue ex, ma hai trovato una... nuova. Succede, è un film infatti sul ciclo dell'amore, insomma, in cui l'amore viene e va. Il film inizia con tante coppie che si dichiarano amore eterno e poi vediamo che non è andata così davvero, e poi nel finale ci sono di nuovo tanti baci di coppie ricomposte, mischiate, cambiate, perché insomma, lo dice il personaggio di Bisio all'inizio del film, l'amore dura un paio d'anni, poi se si fa tagliando si va avanti, se no si ridà indietro. Fausto, ma se tu dovessi dire, a proposito di non ci sono più le stesse le mezze stagioni, no? Anche gli amori non sono più quelli di una volta. Qualcuno dice erano meglio gli amori di una volta, però bisogna dire, per esempio, le donne non se la passavano benissimo negli amori di una volta, no? C'era magari un po' più di convenzione, un po' più di ipocrisia, sembravano più romantici, ma una volta poi arrivati al punto la questione era diversa anche nei matrimoni. Secondo te era meglio prima e meglio adesso? Semplicemente si cambia. Guarda, io ho vissuto soltanto questa condizione, nel senso dell'amore che passa, è difficile tenerselo. La generazione precedente, anche di registi, non avrebbe potuto fare questo film perché 30 anni fa ovviamente questo tema esisteva relativamente, insomma non era così esplosivo. Io so che adesso si sta un po' inquieti, insomma c'è un'inquietudine amorosa molto diffusa, non sanissima. Non so se prima stavano meglio con un'ipocrisia amorosa, e non so se l'amore è proprio fatto così, cioè è uno dei metodi che ha usato un creatore per tenerci vivi. Ricordo il numero verde 800 24 00 24 e poi, visto che giustamente Fausto Brizzi diceva non è che si può soltanto trattare così in modo parodistico o in commedia la fine di un amore, no? Perché è anche una cosa dolorosissima, però ci sono anche degli aspetti molto drammatici. Volevo fare giusto questo inciso per completare un po' il quadro, anzi per renderlo più ampio perché abbiamo ancora moltissimo da dire. Secondo i dati EURES in Italia, l'EURES è l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali con presidente Fabio Piacenti, che ho sentito in questi giorni per avere la conferma che fosse effettivamente così, l'ultimo rapporto è del 2006 e ci sono, pensate, ogni anno in Italia 134 donne uccise in famiglia, per lo più da mariti, fidanzati, ex mariti, ex fidanzati che non accettano di essere lasciati. Questo è l'ultimo rapporto 2006, ma mi diceva Piacenti che il dato purtroppo è il peggiore dagli ultimi 20 anni, ma che si sta consolidando sempre di più negli ultimi 7-8 anni. Ecco, questo era un inciso, Fausto, naturalmente non per andare su questo filone, però per dire che questo è un altro degli aspetti della fine di una storia. Assolutamente, ma... Ce ne sono mille di componenti, di strascichi, insomma, quando finisce una storia. Massimo, dalla provincia di Bergamo, numero verde 800 24 00 24. Massimo, ecco il primo ascoltatore di oggi. Buongiorno, buongiorno Roberta. Buongiorno a te. Bentornata. Grazie, innanzitutto, Massimo. Grazie. Mancava la tua presenza in radio, dico la verità. Diciamo che sia un po' più sparsa qua e là, però sono contenta di avere questo spazio adesso il sabato. No, vorrei dire che non sono un parente, non sto... Ah no, questo è sicuro. Questo è sicuro perché io non avverto mai nessuno, lo so pochissimi intimi, poi gli altri così ascoltano per il passaparola. Allora Massimo, tu hai in mente una notizia della settimana o volevi intervenire su questo tema in particolare? Volevo attualizzare quello che sta succedendo con il caso di Luana. Sì. Il dramma, la vicenda annosissima, ecco, sì. Ricordo quel dramma che non riesce a far rimanere la cosa nella sensibilità e nell'intelligenza di riuscire a capire di rispettare più che altro la situazione e quello che stanno provando chi ha è arrivato a questa decisione che è personale da parte del padre. Cioè tu Massimo dici è una questione di libertà di coscienza e in più bisognerebbe avere più empatia per immedesimarsi in chi questa cosa la vive direttamente. Sì, stanno giocando con questa situazione per fini politici molto sporcamente, proprio lo dico chiaramente, mi dà questa impressione che sia tutto un muovere questo argomento per arrivare a fini superiori a quello di dare un giudizio di coscienza per chi deve governare o chi deve dare un indirizzo per questa cosa. Ecco, io noto che è una cosa squallida e siamo, penso, arrivati a una situazione che debba essere di cambiamento ormai da parte della gente, dalla coscienza della gente, di cominciare a cambiare dal fondo e ad arrivare a modificarsi personalmente, perché chi ci gestisce, chi ci governa, di tutti i colori, non stanno perdendo il vero senso delle cose, assolutamente. Grazie Massimo. Senti, posso chiederti cosa stai facendo in questo momento? Mi interessa sempre il sabato, questo mi stavo organizzando perché Massimo è un clown che anima feste di compleanno per bimbi dai 3 ai 10 anni e stavo organizzandomi per andare a fare un compleanno per una bimba in provincia di Bergamo, ecco. Beh, ti auguriamo allora grande successo anche nel tuo caso. Ma è la tua professione questa o è un... No, io lavoro in industria dolciaria e è nato questo clown albicocco da un paio d'anni, vedo che... Però c'è una coerenza interna nell'industria dolciaria che si pensa, no, un po' il paese dei balocchi e poi fare il clown per i bambini. Massimo, grazie intanto. Grazie a te, auguri ancora per la trasmissione. Grazie mille Massimo. Torneremo ancora poi sugli altri argomenti. Tu, Fausto Brizzi, volevi dire qualcosa su questo che è uno, ovviamente il tema centrale di questa settimana nelle notizie? Mi turba sempre quando il governo passa il tempo, diciamo, su problemi secondari. Io credo che la vicenda di Eluana sia una vicenda personale, cioè concordo con quello che ha detto Massimo, insomma, che non si può andare a sindacare sulla scelta del padre. Io non vorrei nessun accanimento terapeutico su di me, ma credo che ognuno debba scegliere e che si faccia tutto questo polverone su un caso singolo, depistando anche un po' l'opinione pubblica, insomma, da altri problemi, diciamo, molto più generali che in questo momento ci sono in Italia, mi fa sempre, insomma, mi stranisce sempre, cioè come quando c'era Cogne, improvvisamente non si parlava d'altro che di Cogne, in un paese che invece deve andare avanti, in un governo che dovrebbe interessarsi anche di altre cose. Credo che lo stiano strumentalizzando, insomma, questo argomento, e che dovrebbero lasciare il padre vivere in pace questa triste vicenda, insomma. Poi vedremo se altri ascoltatori e ascoltatrici vogliono intervenire su questo argomento, sulle altre notizie, al numero verde 800 24 0024. Intanto ci sono delle interferenze. Riflessioni da Marte. Certo che gli esseri umani sono dotati, bisogna dire, di grande fantasia, no? Specie quelli italici, ancora più si sa i napoletani. Come è stata infatti chiamata l'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti a Napoli? Rompiballe, naturalmente riferendosi alle balle di rifiuti e forse anche un po' alle balle sui rifiuti, che sono state evidentemente balle spaziali, se ne è seguito ciò che ne è seguito, insomma un turbinate giostra ballifera. Stando su questo pianeta, su Marte, devo dire che vengono a volte delle strane curiosità. Se ci fosse per esempio una persona che vivesse, per così dire, come... si può dire chiusa in una bara, no? Sotto 2 metri di terra, ma potendo respirare, ricevendo nutrimento, e fosse lì da almeno 17 anni, chiederei a questa persona: ehi là, che si dice di bello laggiù? E soprattutto, come si sta dopo 17 anni? E se mai fosse una donna, le chiederei, in aggiunta, non è che prima o poi se la sentirebbe lei di fare un figlio? Non so, essendo donna, chissà mai. Fausto, tra le varie notizie, naturalmente, poi gli stupri che purtroppo non mancano mai, il povero indiano bruciato a Nettuno, il Consiglio dei Ministri che ha dato via libera al pacchetto anticrisi, il via libera dell'Aula Senato al disegno di legge sicurezza che ha creato diverse polemiche, soprattutto per la possibilità per i medici di denunciare gli immigrati irregolari, la questione della vigilanza RAI che è stata risolta con l'elezione di Zavoli, ieri c'è stata la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, insomma c'è tantissima carne al fuoco. Fausto, di queste cose che ti sottoponevo c'è qualcos'altro che ti ha colpito, sul quale vuoi commentare qualcosa? Beh, a me la cosa che mi ha colpito è la notizia che ho letto del Fondo Monetario Internazionale, che dice che la nostra recessione continuerà, cioè perché parla proprio dell'Italia. E a me in questo momento, insomma, la cosa che mi preoccupa di più è la recessione, cioè credo che bisognerebbe completamente dedicarsi a questo e ai problemi ambientali, il resto sono veramente sciocchezze, insomma, sono piccole lotte di potere interne in Italia che lasciano il tempo che trovano. Fausto, ma per quanto riguarda il cinema, appunto, visto che tu sei un regista oltre che scrittore, appena pubblicato, diciamo, questo manuale sugli ex, per quanto riguarda il cinema lo senti già che c'è qualcosa di diverso, che ci sono meno risorse, meno... Da diversi anni, ogni tanto si grida alla resurrezione quando improvvisamente escono un paio di film italiani, uno di seguito all'altro, che vanno bene, ma questo non fa testo, insomma, sono casi isolati. L'anno scorso sono usciti 2 bellissimi film come Il Divo e Gomorra nel giro di poche settimane, piuttosto che alcune commedie degli anni precedenti. ma non c'è assolutamente una rinascita neanche economica. In Italia purtroppo si vendono 100 milioni circa di biglietti l'anno, che vuol dire che ogni italiano va al cinema meno di due volte all'anno, e visto che io ci vado un paio di volte a settimana, ci deve essere qualcuno proprio che li brucia i cinema, insomma, per fare statistica con me. Sentiamo. Scusami Fausto Brizzi, ricordo che c'è Fausto Brizzi in collegamento qui a Non ci sono più le mezze stagioni, Roberta Giordano con voi, continuiamo a commentare così a ruota libera un po' le varie notizie della settimana, le cose che vi hanno colpito di più, anche quelle che magari non sono state per forza sempre sulle prime pagine, i primi titoli. Michelangelo da Bari al numero verde 800 24 00 24. Michelangelo. Sì, salve. Ciao Niente, io intervenivo per la questione di Eluana. Sì. Mi sento innanzitutto molto orgoglioso in questo periodo di essere italiano, perché per una volta una persona che è delegata a proteggerci, in questo caso il Presidente del Consiglio, ha fatto un gesto di forza, cioè ha tutelato la vita e quindi ha tutelato me come italiano. Io ne sono orgoglioso di questo. Poi siamo un paese molto strano, c'è chi dice che ci sono vicende più importanti della vita, ma io credo che sia la base di tutto, insomma, il problema economico, il problema della crisi, credo che ci sarà sempre negli anni qualcuno che è in crisi, qualcuno che avrà problemi economici. Quindi c'è fisiologico questo. La vita è alla base di tutto, cioè proteggere la vita è alla base della nostra esistenza, quindi per la prima volta una persona ha fatto un'azione di forza, cioè ha detto ok, decido io e decido per la vita. Ma credo che sia un segno di grande onestà e di grande impegno. Michelangelo, quindi la tua è una posizione proprio diametralmente opposta a quella di Massimo, che va chiamato prima da Bergamo, che diceva che era una questione di libertà di coscienza. Secondo te invece questa cosa va... No. Non è una questione di libertà di coscienza, va imposta per legge. Se... No, non dico che va imposta per legge, tutelare la vita. E, guardi, io sono un volontario del soccorso di Croce Rossa Italiana. Ah, interessante. Quindi non posso non soffermarmi sui valori della vita. In tutto il mondo noi proteggiamo le persone quando c'è una guerra, quando c'è una catastrofe. Cioè siamo lì per garantire la vita. Adesso ce l'abbiamo in casa. Una vicenda così importante che tocca tutti, discutiamo su qual è al primo posto il valore più importante, il lavoro, la crisi, la vita. Io credo che il valore più importante oggi sia la vita. Se oggi è capitata a questa povera sfortunata ragazza, bene, vuol dire che sarà l'antesignana di tutto un discorso che ne verrà dopo, però io credo che il valore della vita è al primo posto, è una persona che tutela me cittadino, me uomo, anche un domani. Io credo che sia importante sapere che alle spalle c'è uno Stato che ti sorregge, cioè che vigila sul tuo benessere. Quindi sulla tua vita. Michelangelo, se tu ti trovassi nelle condizioni di Eluana e passassero appunto così tanti anni, vorresti che su di te si continuasse a cercare di operare, insomma, delle tecniche di sostentamento, di nutrimento, in questo senso, anche se fossero passati tanti anni e tu fossi sempre in quello stato di... Ma sì, è viva, quella ragazza è viva, c'è poco da fare, non è morta, è viva, quindi se è viva va protetta fin quando finché ci sarà vita nel suo corpo, va tutelata. Nessuno può dire che oggi quella ragazza è morta, non è un vegetale, è un essere umano, vive, risponde anche alle cure. Non capisco perché si discuta. Si discute su un'azione che deve essere comunque portata a termine. Cioè questa ragazza va accompagnata nel suo percorso di sofferenza, ma va accompagnata fino a quando reggerà. Michelangelo, ti ringrazio allora per la tua testimonianza. Quindi abbiamo sentito due pareri, grazie a te, completamente opposti sullo stesso argomento, delicatissimo, che è quello che probabilmente inevitabilmente ha colpito di più un po' tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori. Numero verde 800 24 00 24. Poi tra poco risentiremo ancora naturalmente Fausto Brizzi, che è in collegamento, ma sentiamo Paola D'Asti. Buongiorno. Buongiorno Paola. Scusate l'emozione. Io non intervengo di solito, ma questa settimana ho spento spessissimo la radio proprio perché mi creava problemi sentire sempre parlare di questa situazione. E io dividerei due cose, cioè la propria personale convinzione, per cui io posso essere a favore della vita, posso accettare la vita in qualsiasi forma, in qualsiasi aspetto, e quello che invece può essere un compito dello Stato, che è il rispetto e la dignità di una persona, quindi ognuno deve essere anche libero in propria coscienza comunque di fare delle scelte, perché altrimenti diventa ipocrita un atteggiamento di fondamentalismo eccessivo rispetto a una questione che può essere all'attenzione in questo momento della cronaca, e far finta di niente. Cioè, io non so, mi sembra di aver sentito l'ultima volta che ogni 3 minuti muore un bambino di fame nel mondo. Allora, la salvaguardia della vita, è importante solo la vita nei paesi occidentali, anche di una persona quindi deve essere a tutto tondo, anni, oppure scusi. No, perdonami, ti ho interrotta, vuoi dire nel senso del rispetto della vita a tutto tondo, quindi dici non esatto, sono un caso particolare. Esatto, cioè, o si rispetta la vita e quindi si fa di tutto, specialmente la Chiesa non può vivere su un seggiolino d'oro, allora o fa come San Francesco, si spoglia da tutto ai poveri, risolve il problema della fame nel terzo mondo e poi si alza a paladina della vita e della salvaguardia della vita ad ogni costo. Ma non si può fare poi delle chiacchiere così su un caso singolo quando la vita la calpestiamo ogni giorno in tutte le sue forme. Io sono un'operatrice anche sociosanitaria, lavoro in un centro Alzheimer e posso dire che comunque la vita di tante persone è veramente difficile, e penso che ognuno debba poter scegliere in fondo cosa fare della propria vita. Quindi libertà di scelta. Grazie. Libertà di scelta. Grazie molte, Paola. Grazie. Grazie e buon sabato. Fausto Brizzi, volevi ritornare oppure sull'argomento, oppure ti volevo sottoporre un po' di argomenti di attualità legati sia al tuo film che al tuo libro che ho trovato questa settimana. Vai. Allora, per esempio, vedevo da questa ricerca che è stata pubblicata con amplissimo spazio sul Corriere questa settimana, è uno studio del Centro Studi AMI, secondo il quale sono in aumento le donne nelle separazioni, nei divorzi, che devono mantenere gli ex, a proposito di ex, no? Uno dice, insomma, possiamo vedere l'aspetto positivo di questa cosa nel fatto che evidentemente sappiamo che paga chi è più ricco, no? Non nelle separazioni, nei divorzi. A quanto pare, anche se in una percentuale bassissima, perché è il 3,5% del totale delle donne che si separano in Italia che poi mantiene il marito dopo la separazione, significa che un pochino più di potere economico alcune donne almeno l'hanno acquisito. Certo, su 100 coppie che si separano sono 3 le donne, 3 qualcosa le donne che hanno un po' più di potere economico, di risorse del marito, e quindi sono loro che devono poi passare l'assegno. E sembra da questa ricerca che si scrive: le signore sono leali, versano quello che c'è da versare, sono più generose degli uomini e sono rispettose dei diritti dell'ex marito. A proposito di non ci sono più le mezze stagioni, vedi qualche cambiamento in corso, Fausto. E poi, guarda, io sì, è un argomento complicatissimo questa cosa degli alimenti, perché ovviamente è difficilissimo, non vorrei mai essere nei panni di un giudice divorzista. Peraltro nel mio film ho messo in campo uno che sa Silvio Orlando, molto divertente. Ma sempre molto bravo. Ogni storia è a sé, realmente è difficilissimo valutare, è molto semplice valutare quanto devi dare come assegno, diciamo, di mantenimento dei figli, è molto difficile invece valutare quanto vale un amore, insomma, quanto valgono gli anni passati insieme, anche perché a volte si fanno delle rinunce per amore. E come no? Spesso questo accade alle donne. È difficile valutare quanto poi questo deve essere quantificato monetariamente, se poi il denaro basta a risarcire in qualche modo. Non basta il denaro, però purtroppo quando si tratta di legiferare, no, in queste cose è difficile poter legiferare anche sui sentimenti, su quello che è stato, sul dolore delle persone, no? Cioè, purtroppo sono situazioni squallidissime nelle quali ti trovi, in cui sei costretto a quantificare. E che ci sia, insomma, adesso, insomma, che anche delle donne mantengono degli uomini è un bellissimo segnale, nel senso vuol dire che finalmente si va verso una parità assoluta, però è una situazione, è proprio nel mio film lo racconto perché è una situazione che sento molto mia. È proprio l'istituzione del matrimonio che in questo momento sta vacillando. Sentiamo cosa ne pensa Vanessa da Roma, o se ha un altro argomento in mente. 800 24 00 24. Vanessa, mi devi perdonare, abbiamo un minuto prima della prossima parte. Sì, sarò velocissima. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a te. Sì, il mio intervento è in relazione proprio al caso Englaro. Sono d'accordo con quel radioascoltatore che diceva che bisogna tutelare la vita, perché appunto in base appunto a un'assenza, no, ben precisa di una richiesta del soggetto che si trova appunto in quelle condizioni, anch'io sono propensa a tutelare la vita, perché si tratta veramente di persone che vivono, perché appunto, ho visto persone che si trovano in quello stato e sinceramente sembra che parlino con gli occhi a volte, che sollecitati in alcuni atteggiamenti con musica oppure con sguardi e carezze sorridono. Hai avuto esperienza tu, Vanessa? No, quello no, però ho visto persone care di altre appunto persone congiunte che sono in quella situazione e sinceramente sembrano proprio persone vive, quindi se proprio quella persona stessa non ha deciso espressamente di farla finita, se si trova in quei casi, combattere diciamo per tenere in vita una persona che non l'ha espressamente richiesto, penso sia giusto, anche perché è come ucciderla, effettivamente è un po' difficile lasciarla morire di fame e di sede. Vanessa, prima, perdonami, no, il concetto è chiaro, il tuo pensiero su questa cosa. Posso chiederti quanti anni hai, se non sono indiscreta, che cosa fai nella vita? Sì, io ho 37 anni e sono impiegata. Sei impiegata. Vanessa, forse stai viaggiando, quindi ti auguro buon proseguimento, buon viaggio. Buon proseguimento anche a voi. Grazie mille, Vanessa. Sempre Roberta Giordano con voi, grazie di essere con me qui a Non ci sono più le mezze stagioni, in collegamento sempre Fausto Brizzi, che è appena uscito ieri col suo nuovo film Ex, con il manuale degli ex, tutto incentrato appunto sugli amori che finiscono, gli aspetti un po' più paradossali, quelli più amari, lo sappiamo tutti, anche molto doloroso, a volte ci si può anche sorridere, soprattutto a distanza. Sempre numero verde per voi, gli ascoltatori, 800 24 00 24, ascoltatrici e ascoltatori, per intervenire su questo tema o sui tanti che piano piano vi sto un po' sottoponendo, o su qualcosa che non è stato detto a proposito delle notizie della settimana. Questo è un programma tutto sull'attualità, quindi se c'è un qualcosa in particolare che vi ha colpito, al di là del tema che capisco vi ha sicuramente impressionati e toccati di più, che quello della vicenda lunghissima, dolorosa di Eluana Englaro, se ci sono anche degli altri argomenti, con libertà di parola 800 24 00 24 e tra poco sentiremo Fabrizio da Genova, Domenico da Milano. Ma per tornare invece sul tema che ha portato di nuovo in attualità Fausto Brizzi col suo film e col suo libro, Fausto, ti dicevo allora che aumentano le donne che pagano gli alimenti, poi c'è una sentenza della Cassazione di questi giorni, di questa settimana, dalla quale possiamo evincere che è meglio non scrivere un biglietto amoroso alla propria moglie se poi si ha intenzione di tradirla, giungendo addirittura ad abbandonare la casa coniugale per trasferirsi dall'amante. Perché? Perché la Cassazione ha confermato che la corrispondenza domestica, quindi bigliettini tra marito e moglie fatta di post-it romantici, no, appiccicati al frigo, frasi romantiche, quella prova che nella coppia c'è armonia. E dunque se poi compare un amante, il marito non può difendersi dall'addebito per colpa nella causa di separazione, quindi nel dover dare poi l'assegno, sostenendo che la crisi coniugale era già iniziata da tempo e che il suo tradimento era solo il risultato dello sfaldamento del matrimonio, perché se c'erano prima, precedentemente, questi bigliettini, vuol dire che non è vero che il matrimonio stava andando per aria. Capito, Fausto? Sono rovinato. Facendo lo scrittore di mestiere scrivo un mondo di bigliettini, a parte che invito tutte le mie ex a restituirmi immediatamente, se no ti dilapidano qui. E poi invece un altro, a proposito dei fenomeni, no, più recenti, questo di Facebook, che ormai conoscono più o meno tutti, chi non lo sapesse, si chiama social network, ma insomma è questo grande spazio sulla rete, in internet, dove ognuno scrive il proprio profilo, si descrive, mette le foto, un po' di cose di sé, e era nato per cercare, diciamo, i vecchi compagni di scuola, ma adesso è diventato un modo per comunicare mondiale. Ci sono non so quante, 600 milioni di persone nel mondo in totale, in Italia ce ne sono un milione e mezzo, mi sembra, ma sta sempre più crescendo. E leggevo che fra i fenomeni legati appunto agli ex c'è anche questa ossessiva ricerca dei propri ex per cercare di tornare insieme o per capire che fine hanno fatto. Diciamo che sono gli aspetti un po' più controversi di questi mezzi tecnologici. Che dici, Fausto? Io sono spaventatissimo da Facebook. Anch'io, infatti. C'è il mio programma, ma non ci sono io, perché per il momento. Io non ci sono. Se sono su Facebook è un clone, non sono io, insomma, perché molti ormai hanno, cioè visto che su internet puoi attivare quello che vuoi, molti spesso attivano nomi, a nome tuo, sì. Cose. Cioè io non ci sono su Facebook perché i miei ex amici, se sono ex, un motivo ci sarà, non li voglio ritrovare. Uno cerca di scrivere, soprattutto appunto tra gli ex, non si vuole più far vedere, più sentire, non vuole contatti, no, ti cercano anche attraverso Facebook. Mi sembra un'inquietante vita riflessa verso il passato invece che verso il futuro. E questo è un punto di vista interessante, effettivamente. Ma evidentemente c'è sempre l'agguato del tempo, no? Dei rimpianti, che quindi noi siamo, forse gli esseri umani sono fisiologicamente nostalgici perché la loro storia sì, è proprio un sito che è costruito su nostalgia. Sì, è vero, no. È vero. E quindi dai punti di vista. Oltre che un sito per rimorchiare, perché insomma ormai per rimorchiare. Sostanzialmente sta diventando. Cioè, i miei amici ci vanno per rimorchiare, per trovare i loro nuovi compagni di scuola. Insomma, diciamo che è multiuso, ecco, Facebook. Esatto. Sentiamo Fabrizio da Genova e chiedo scusa se agli ascoltatori che stanno aspettando da molto il numero verde 800 24 0024. Fabrizio, a te la parola. Sì, eccomi, scusate il mio cinismo e il mio pragmatismo, sì. Ma non riesco a farne a meno. Sentiamo di cosa si tratta. A me piacerebbe che i media pubblicassero qualche fotografia di Eluana, non come adesso, perché adesso si vedono queste foto di questa ragazza meravigliosa, sorridente. Vorrei che pubblicassero le foto di quello che è rimasto di Eluana. Perché io temo che qualche mio concittadino dia delle valutazioni perché non riesce a vedere con i propri occhi o toccare con mano cos'è un dramma. Cioè, io tu vorrei dici... far vedere questa ragazza completamente spenta, con gli occhi spenti, con i muscoli atrofici, che è su un letto da 16 anni. 17. Perché è facile dire salvaguardiamo la vita quando ognuno di noi va a prendere bambini a scuola, va a Luna Park, va a sciare. Ma io vorrei che ognuna di queste persone si medesimassi nell'Uana. Io sono convinto, e mi devi perdonare per questa qua presunzione, ma sono convinto che ognuno di noi, se avesse la possibilità di parlare, fosse fermo in un letto da 16 anni, chiederebbe ai congiunti, per favore uccidimi. Fabrizio, quindi tu dici che se si potesse, perché anche il medico stesso che si sta occupando adesso della clinica di Udine, che è a capo di questa equipe, che era pronta appunto a staccare il sondino per il nutrimento, aveva detto che era rimasto devastato dall'immagine di Eluana vista direttamente sotto i suoi occhi, visto che anche lui, come tutti, aveva un immaginario completamente diverso, no, di questa persona, proprio per le foto che negli ultimi mesi, negli ultimi anni abbiamo visto scorrere sempre di lei nel suo splendore, no, dei suoi pochi anni. Esatto. Quando era successa questa cosa, tu dici se si vedesse un'immagine di ora nuda e cruda per come è veramente, forse si capirebbe qualcosa di più. Ma dal sì, tuo punto perché di guarda, vista. Io scusami, io stimo tantissimo i miei concittadini, ma vedo come si muove l'opinione pubblica. Qua l'opinione pubblica si muove contro l'uccisione della foca del Polo Nord, quando vedono i focaioli che col bastone spaccano la testa alla foca e vedono il sangue rosso che cola sulla pelliccia bianca. Nessuno riesce a trascendere un attimino e andare oltre, devono vedere. E allora il dramma, e so che sarebbe una cosa bruttissima, ma bisognerebbe che glielo facessero toccare con mano a questi signori. E io comunque rimango del parere che ognuno di noi, dopo 16 anni di costrizione in un letto, e sai di essere praticamente una meba, a qualsiasi congiunto chiederebbe per favore uccidimi. Grazie Fabrizio, è stato molto molto molto eloquente quello che il tuo pensiero, insomma, l'immagine che ci hai voluto dare e il tuo punto di vista su questo argomento e che cosa potrebbe far cambiare dal tuo punto di vista, naturalmente, l'idea a molte persone. Grazie a Fabrizio. Sentirei Ari da Vaprio d'Adda, che forse vuole parlare di un argomento diverso. Ari? Sì, ciao, volevo parlare a proposito di Facebook. Ari, il tuo, cos'è, un diminutivo che viene da dove? Da che nome? No, non è un diminutivo, è un nome particolare, cultura induista, diciamo. Beh, i tuoi sono di questa... No, io sono italiano, anche i miei sono italiani e quindi loro negli anni 80 facevano parte di una comunità Hare Krishna, quindi... Quando sono nato io, che sono dell'88, hanno si sono deciso ispirati... di darmi un nome particolare. Bene, Ari, vedi come a volte con piccoli particolari si risale, spero con discrezione, un po' a una piccola parte della storia delle persone. Ari, quindi di cosa volevi parlare? Prego. Di Facebook, e comunque ero d'accordo con l'autore perché... Con Fausto Brizzi. Io appena... Dimmi? Con Fausto Brizzi, dicevi. Sì, grazie, sì. Scusami perché sto viaggiando adesso. Prego. E no, sono sente. Un po' distratto. E... Dimmi, quindi io ho appena trovato una fidanzata che sinceramente ci sto veramente bene e avendo trovato anche lei Facebook sono comparsi ex, mica ex, tutta una serie di persone che comunque... Il passato che ritorna, puoi abbassare la radio Ari, se non spegnerla certo. Del tutto così non si sente l'eco, grazie. Ok, sì. E sono comparsi tutta una serie di ex, mica ex, o persone che comunque, anche avendo visto solo le foto del profilo, ci avevano scritto messaggi e altro, e è brutto perché non hai controllo su questa cosa, quindi è un po' una sofferenza, però siccome ci sentiamo, comunichiamo, lei mi ha dato ascolto e non ci dà più di tanto peso a queste cose. Comunque tu trovi che sia... Ma l'hai trovata attraverso Facebook, la tua fidanzata? No, noi ci conosciamo, quando io ho fatto Facebook anche lei ha deciso di iscriversi e... Ah, è stato posteriore. Più o meno un colpo basso così. No, ma poi è una questione anche sulla vita amorosa, quindi ognuno ha una propria gelosia e propri livelli. Quello è inevitabile, però insomma col passato credo che, se a meno che non ci siano proprio delle recrudescenze, dei ritorni di fiamma, è inutile essere gelosi del passato del proprio padre. Esattamente, no? Sono pienamente d'accordo. Farsi del male per nulla. Quindi finché ci si parla e si comunica si ha una bella comprensione dell'altro. Grazie. Grazie Ari da Vaprio Dadda. Fausto Brizzi, tu nel tuo manuale, più che dei consigli, insomma, fai anche lì un po', osservi da, si può dire, da mi diverto. Sì, in modo divertito, no? Fai un'analisi di quelli che sono un po' i cliché anche, no? Di quelli che sono i cliché, di film per esempio da non vedere quando sei appena stato mollato. E di canzoni da non sentire, perché distruggi senza film. Perché ti ammazzi. Oppure faccio anche un'analisi di quanto gli ex siano fondamentali per la drammaturgia moderna. Vedi Beautiful per esempio, dove se togli il concetto degli ex all'universo creato dagli autori di Beautiful non rimane più niente praticamente. Solo su questo argomento, Beautiful. Ma sai che non è mica finita poi con le ricerche, sembra veramente che non possiamo più nasconderci da nessuna parte, perché prima facevamo il caso di Facebook. Altra novità di questa settimana è un nuovo servizio offerto da Google Maps, che si chiama, non so se hai sentito Fausto, Google Latitude, latitudine, per cui chi ha un telefono cellulare o un dispositivo wireless, quindi senza fili, può individuare la posizione di conoscenti e parenti, non se ne può più, o no? Ma la fregatura è il telefonino, credo che il mondo più avanti sarà proprio diviso in prima del telefonino e dopo il telefonino. Lo è già diviso, no, a questo punto. Cioè, se uno vuole ritrovare la sua privacy, la prima cosa di cui deve disfarsi è il telefonino. Ma lo faresti mai tu? Quando sono in vacanza lo faccio sempre. Ah, riesci? Quando sono in vacanza, no, non è vacanza. Cioè, il primo sintomo che sono in vacanza è lo spegnimento del telefonino, che viene messo in una borsetta e riacceso alla fine della vacanza. Beh, questo... Tanto non cambia niente, il mondo va avanti anche senza... Credo che sia un ottimo meccanismo di disintossicazione. Questo è un consiglio allora di Fausto Brizzi per chi ci riuscisse, che non è male come cosa, ormai entrati da tempo nell'era del telefonino senza ritorno. Lasciate un recapito ai parenti stretti per le emergenze e per il resto. Sentiamo, c'è Valeria Della Valle intanto. Valeria, ti ringrazio. Sì, eccomi. Valeria, docente di linguistica italiana all'Università La Sapienza di Roma, alla quale vorrei chiedere, tra tutte queste notizie, tra tutti questi fatti, naturalmente anche tu sei sempre attenta osservatrice, parlando di una possibile parola, di un concetto, ecco, che affibbieresti a questa settimana nel suo complesso rispetto alle notizie e ai fatti. Ma guarda, la parola o il concetto che mi viene in mente e che in un certo senso lega tutte le cose di cui stiamo parlando, pur molto lontane tra di loro, la vicenda di Eluana Englaro, oppure parlavate prima di Facebook sì. Google eccetera, ecco, o di telefonini poco fa. Quello che mi viene in mente è un'esigenza di silenzio, nel senso che nei confronti della vicenda di Eluana Englaro, che davvero ci opprime, ci rattrista e soprattutto forse ci, non solo questo, ma ci turba anche il modo in cui se ne parla, no? Che si arrivi a ipotizzare una sua capacità di gestazione o altre cose che sono state dette. Ecco, tutto questo fa parte di un frastuono assordante che credo sulla vita di ogni ognuno di noi abbia un peso molto grande. E nello stesso tempo, ecco, fenomeni di tipo diverso, Facebook o un certo tipo di novità di servizio di Google, che dove non c'è magari voce, c'è uno scritto, ci sono i collegamenti continui che potremmo riallacciare con persone di cui non sapevamo più niente, ma anche questo secondo me è una forma di frastuono del quale ci circondiamo. Quindi il frastuono ti viene in mente come concetto di questa mi settimana? Mi viene in mente il frastuono che ci circonda, in certi casi un frastuono drammatico, quello che riguarda la vicenda Englaro, in altri casi questo frastuono che andiamo a cercare chattando, e allora mi viene in mente proprio come esigenza il concetto opposto, cioè quello della necessità di silenzio. Quindi a me viene in mente, ecco, proprio a proposito della settimana che si sta concludendo, la voglia che forse non è una voglia mia, è una voglia che sotto sotto sentiamo tutti, quella di anche momenti, o forse più che momenti, di silenzio e di rispetto, per esempio nei confronti della vicenda drammatica che, ecco, intorno alla quale tanti telefonavano. Grazie Valeria Della Valle. Quindi frastuono e silenzio, contrapposti questi due concetti rispetto alle notizie di questa settimana. Siamo sempre insieme questo sabato pomeriggio, Roberta Giordano con voi, sempre Fausto Brizzi in collegamento. Dicevamo che venerdì è appena uscito ieri il suo nuovo film Ex, e quindi ci siamo un po' soffermati anche su questo argomento degli amori, delle storie che finiscono, con tutti gli aspetti sia paradossali sia tristi, dolorosi, e su tante altre notizie, in particolare un po' inevitabile insomma che gli ascoltatori intervengano soprattutto sul caso di Luana Englaro, ma ovviamente assoluta libertà di parola su qualsiasi argomento, su qualsiasi notizia di questa settimana che vi abbia colpito, sulla quale volete fare delle vostre aggiunte, delle riflessioni. 800 24 00 24, il numero verde. C'è Emma da Venezia. Emma, sì. Te la parola, Emma. Grazie. Grazie a te. Ciao, volevo dire una cosa, sì. Spero di essere interpretata anche bene, che io sono molto felice che ci siano molti giovani, e soprattutto anche ci saranno tanti anziani, tante persone che si mobilitano per la tutela della vita di una persona che non ha più di tanto, che ha, dicono, vita, che si muove, muove gli occhi, capisce, via discorrendo. Perché ciò mi dà la speranza enorme, anzi la certezza, perché queste persone che si mobilitano per questo caso qua, meglio ancora si mobiliteranno contro quella legge che obbliga i medici a non curare, perché andrà a finire che non potranno curare, gli immigrati irregolari in Italia, che sono delle persone, sono dei bambini, sono delle donne che dovranno partorire un'altra vita, e bambini che corrono e salto, che hanno tutta una vita veramente davanti, oppure quegli immigrati che arrivano coi barconi e che praticamente sono strenuati da un viaggio bestiale, senza assiderati oppure affamati, e avranno bisogno e devono essere ricoverati negli ospedali e non potranno, perché sennò saranno denunciati. Emma, oppure perdonami. Oppure i barboni, che viene fatto il censimento, non si sa per che cosa, perché di legge se fai sicurezza. Un censimento di un senza fissa dimora, cosa fanno? Forse sarà per voler meglio sapere dove sono e poterli meglio bastonare e bruciare. Emma, e poi quindi non perdonami. Curare. Perdonami, quindi tu stai mettendo un po' in paradosso la situazione, dici da una parte tutto questo frastuono, come diceva Valeria Della Valle, nei confronti di questo caso, di voler tenere a tutti i costi in vita Luana Englaro, e dall'altra però dici con il disegno di legge sulla sicurezza che si sta discutendo in Parlamento, quasi e rendendo possibile la denuncia da parte dei medici degli immigrati clandestini, dici quasi si impedisce alla fine di curare chi ha bisogno, che ha una vita davanti, questo dicevi, Emma? Non ti pare? Non lo so. Non c'è una contraddizione. Non voglio parlare di tutti quanti quei bambini che muoiono veramente di fame nel mondo e anche in Italia. Quelli che devono essere veramente curati. Lì c'è stato un unico sbaglio che il padre avrebbe dovuto fare, cosa che al momento nella grande disgrazia uno non ci pensa, firmare, ritirare la figlia e portarsela a casa subito quando ha visto dopo un anno che praticamente non c'è, un anno o due che non ce la faceva più, che la ragazza, insomma, io non lo so come si può pensare che una persona sia viva, anche ammesso anche, ripetami, se avesse gli occhi aperti. Mia madre, che era vecchia, continuava a dire ai suoi medici, ma non da quando era vecchia, da sempre, che lei l'accanimento terapeutico non avrebbe voluto. E quando c'è stato un momento che avrebbe avuto bisogno del sondino, ha detto, io non voglio niente, voglio andarmene a casa, il sondino non lo voglio. Allora, perché uno può parlare, allora si accetta, si applica quei diritti previsti dalla Costituzione, e una perché disgraziata tra virgolette, capisci, ha 17 anni di sofferenza in un letto che non soffre neanche più, perché chiaramente non soffre più. I medici stessi dicono in che condizione ridotta, ma non lo so, io non capisco la follia della gente, proprio non riesco a capirla. Emma, sei stata chiarissima, mi dici che cosa stai facendo, se posso chiedertelo, in questo momento di sabato pomeriggio, a parte sentire la... Stai? Ristesa, rilassata, che ascolto prima di andare a vedere un film. E ti ringrazio moltissimo allora di essere stata mia compagnia. Ciao. Grazie Emma, ciao. Domenico da Milano. Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno Domenico. Buongiorno, sì, io dico buongiorno perché il ciao mi sembra molto confidenziale, non lo so. Io lo desidero, se è possibile, preferisco che ci sia più vicinanza, che non ha nulla ciao, di ipocrisia. Allora. Ti ringrazio, no, grazie. Io volevo fare solo una piccola premessa prima di parlare del mio pensiero sul caso Eluana. Sì. A quanti ogni tanto sento alla radio, perché io ascolto praticamente sempre Radio 24, dicono che le telefonate sono filtrate. No, assolutamente no. Allora devo intanto ringraziare Gigi Borghi moltissimo in assistenza regia, che sta accogliendo tutte le vostre telefonate, che lì non filtra, le raccoglie e le passa, sempre naturalmente. Io intervengo o non intervengo in trasmissione, credo che sia solo un problema di tempistica. Sì, sono molti gli ascoltatori. Non è mai stato filtrato. No, no, assolutamente. Cioè, probabilmente hanno il filtro in testa loro quando chi parlano alla radio, che dicono che le telefonate sono filtrate. No, non so appunto neanche qual è l'argomento che tratterete, quindi lo dico a Gigi di passare naturalmente con grande libertà quelli che riesco ovviamente a far parlare, perdonatemi se non c'è spazio magari per tutti. Prego Domenico. Ecco, allora io volevo parlare del caso Eluana. Sì. Dicendo, premettendo questo, che io anch'io, ma ancora prima che lo sentissi le parole del medico di Eluana, sono anch'io devastato all'idea di pensare che si possa togliere il cibo e l'acqua a una persona, cioè a me fa un male terribile, ma io inviterei semplicemente le persone, tutti quanti, quelli che parlano di vita e di non vita, di fare una cosa molto semplice, aprire il dizionario, andare alla parola vita e vedere cosa dice il dizionario di vita. Vita è quello che sto facendo io adesso con te, sto parlando, è quello che farò fra un'ora, andrò a fare la spesa, mangerò stasera, mi metto a cucinare, mi vedo con la mia fidanzata, vado al cinema, mi metto a letto, domani lunedì mattina mi alzo, mi lavo, mi vesto e faccio... Questa è vita. Non... Una persona che è ferma, io voglio capire cosa si intende per vita. E poi, senza fare nomi, mi deve permettere un'altra cosa. Prego. Poter avere un figlio. Poter avere un figlio presume dei sentimenti, una relazione, l'amore. Ed è una contraddizione nei termini. Certo, non fare da incubatrice, vuoi dire questo, insomma. Sì, ma oltretutto, da una parte, le stesse persone che hanno detto, perché non riesco neanche a nominarla, che Eluana potrebbe avere un figlio, sono quelle che dicono che sono contro la procreazione assistita. Eluana, in questa situazione, l'unica cosa che potrebbe portarla ad avere un figlio è la procreazione assistita. Non mi sembra che ci possa essere la possibilità di un sentimento o di un parliamoci chiaro, di un rapporto sessuale. Sì, sì, sì, no, è chiarissimo quello che stai dicendo. E per cui le stesse Domenico, persone che dicono che sono contrarie alla procreazione assistita dicono che Eluana potrebbe avere un figlio. Ma sono devastati. Domenico, grazie. No, che si è capito chiaramente, insomma, che è in polemica con quello che ha detto ieri il presidente del Consiglio Berlusconi. Grazie a Domenico da Milano, 800 24 00 24. Fausto Brizzi, sempre dall'altra parte. Fausto, intanto invitiamo stasera andare al cinema a vedere Ex. Appena finita la trasmissione. Appena finita la trasmissione, giustamente. Il sabato pomeriggio, cosa c'è di meglio, di più rilassante? Sì, ma rilassante. Poi che vince, che è proprio un tempo. cinema. Vero, soprattutto d'inverno. Ti butto lì altre notizie velocemente. Per esempio c'è questa la copertina dell'Espresso dedicata a un'inchiesta. Onorevoli eurofannulloni, cioè gli italiani, come si sa da tempo, sono i più pagati, arrivano fino a 35.000 euro al mese tra vari privilegi, eccetera, eccetera, ma anche i più assenti e i meno produttivi. C'è questa interessante inchiesta sull'Espresso. Insomma, l'importante è essere i primi della classifica, sia nell'essere pagati che nell'essere assenti. Poi volevo chiederti, tu trovi questo scandalo intorno a Phelps, il campione di nuoto mondiale, 8 volte campione olimpionico, il fatto che abbia fumato uno spinello e lo abbiano sospeso per 3 mesi, vabbè, questo non comprometterà la sua carriera. Insomma, trovi che sia giusto, che lui rappresenta un modello per i giovani, o che sia alla fine a 23 anni una cosa che... Ma io credo che avrebbero potuto anche perdonarlo con magari una sua ambizione di... insomma, con un suo messaggio magari video per non cercare di diventare un cattivo modello, ma che l'abbiano squalificato. È comunque un danno, 3 mesi per uno sportivo, sì, no, di quel livello. Sicuramente, però già si sta preparando per i campionati negli Stati Uniti, poi in Italia. Sì, certo. Capisco che uno poi diventa un modello, ma è anche difficile quando hai 20 anni, pensa ai campioni, insomma, di tutti gli sport, eccetera, non commettere degli errori. È difficile valutare la portata di quanto sei un modello per i tuoi coetanei. Senti, ma secondo te sono abbastanza 80.000 morti all'anno in Italia causati dal fumo di sigaretta, per dire basta alla sigaretta? Adesso parte la campagna del Ministero del Welfare. Io non fumo e non ho mai fumato. Mi dà molto fastidio chi fuma, perché mi sembra comunque un'invasione della mia libertà. Sono d'accordo, lo sanno che io sono integralista contro il fumo da quando ero bambina, quindi questa cosa mi tocca particolarmente. E mi dà anche fastidio perché comunque credo che sia veramente... Una piccola morte. Sì, no, è del danno che si fa a se stessi. Insomma, l'importante, poi, se uno lo vuol fare a livello di libertà individuale, basta che, insomma, non comprometta poi la salute degli altri. Ma una beffa che sul pacchetto di sigarette ci sia scritto il fumo uccide. E uno tranquillamente, se lo fuma tutto intero. Comprare tranquillamente. Allora, ringrazio intanto Giacomo Spunta, che alla regia, alla parte tecnica, dicevo prima Gigi Borghi. Mi sarebbe piaciuto sottoporre anche a Fausto Brizzi questa cosa di un nuovo reality in Gran Bretagna, dei matrimoni combinati. Dico, ce ne stiamo liberando, almeno in buona parte dell'Occidente, bisogna andare adesso a fare un reality con i matrimoni. Mi informo, lo uso per ex studio, ecco, potrebbe tema, perfetto. Allora, ti ho lanciato un suggerimento. Grazie mille a Fausto Brizzi, grazie e al suo film Ex e al suo manuale. Roberta Giordano, mi raccomando, vi dà appuntamento al prossimo sabato alle 14, sempre riflettendo sul fatto che non ci sono più le mezze stagioni.